e un'ostinata errore lasciar sicuro duce del piede errante a buon cammino assorto, te col tempo e il consiglio e presto il porto.